Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Si profila una stagione perigliosa e ansiogena. È quella delle casalinghe intrusioni. Non sorridere, Sansonna, non sto parlando di un nuovo genere pecoreccio amatoriale, ma le intrusioni casalinghe sono quelle che alimentano l'incubo della famiglia italiana media, ma anche del singolo e la singola italiana, che abbandonano il sacello di ogni loro privatezza, il ricettacolo di ogni loro avere, in mani sconosciute. Cioè, d'estate si va in vacanza. Chi una settimana, chi un mese, 15 giorni, chi soltanto un weekend, e si sa che la casa che lasciamo incustodita, seppur blindata, con serrature di sicurezza, sistemi di sorveglianza, videocamere comprate alle bancarelle dei cinesi, comunque sia, è un territorio privato che potrebbe essere violato. E quindi quanto voi coltivate il terrore dell'intrusione casalinga? E come riuscite a cuor leggero a starvene spaparacchiati sulla spiaggia pensando che qualcuno con un semplice tubo a cui è stato dotato un meccanismo particolare scardina la vostra serratura di sicurezza, pagata anche bei soldini, entra dentro casa e comincia a mettere mano alle vostre cose più intime, comincia a prendervi gioiellini di famiglia lasciati da generazioni e generazioni, poi mette le mani nei cassetti, trova nelle vostre intimità il calzino in cui avete messo i soldini che avete risparmiato in tutta la settimana, li tenete lì chiusi nel calzino perché non vi fidate delle banche, e poi i soprammobili, le coppe che avete vinto, le medaglie della corsa ostacolo di quando eravate bambini, e poi mette le mani nella cosa più sacra che voi avete, l'angolo della tecnologia. Avrete lasciato a casa il vostro computer, il vostro iPad, i vostri strumenti raffinati e metafisici di ascolto. Beh, tutte queste cose vengono insaccate, insieme all'LCD, insieme al televisore, insieme alle cosette che valgono qualcosa, se c'è qualche oggetto di design, e poi anche gli abiti, le scarpe firmate, gli abitucci di certo pregio. Tutto va bene, tutto fa brodo, tutto è roba da mercatino e tutto viene portato via. E se voi malauguratamente non avete lasciato qualcosa di appetibile per i ladri, trovate la casa lordata di immonda immondizia e di orrida profluvie, come le arpie dantesche nella Divina Commedia insozzavano tutto ciò che ci fosse di insozzabile. 800240024, tanto per farvi andare in vacanza felici e tranquilli. Apri. C'era tu la chiave? Non è casa mia. Che c'è abitato? Un macellaio. È ricchissimo. C'è un sacco di gioielli. Denaro liquido, argenteria. C'è nessuno dentro? Non lo so. La lampada. Apri. Presto. Ti supplico. Taglie. Levate le scarpe per rumore. Hanno chiuso pure le porte interne. Brutto segno, io me la sguaio. Apri. Per questo ho portato te. Ma che vuoi da me? Impara. Questo potrebbe essere il pianerottolo di casa vostra. Questo potrebbe essere delle persone che si stanno muovendo nelle vostre amate pareti domestiche. Il luogo che fu teatro delle vostre ansie, delle vostre gioie, dei vostri amori, delle vostre clandestine digressioni, delle vostre meditazioni, delle vostre evacuazioni, delle vostre rabbie. Beh, è violato da sconosciuti, forse anche adesso, forse in questo momento, che voi non ci state pensando. Giuseppe Sansonna. Buongiorno. Invece qui, nello specifico, la casa è di Ugo Tognazzi, che è macellaio nel film visionario sul fureo allegorico La proprietà non è più un furto, di Elio Petri. E i ladri invece sono il febbrile Flavio Bucci, Total, questo impiegato che vuole sopperire alle mancanze, alle sperequazioni sociali con un esproprio proletario in casa di questo avido macellaio, e si porta dietro il ladro di professione, che è l'ambiguo e meraviglioso Mario Scaccia, e quindi insieme scassinano questa casa e troveranno dentro Daria Nicolodi, che apparterà ai vari beni del macellaio, per l'appunto, e anche lei verrà violata insieme ai beni materiali. Ecco, mi piacerebbe sapere, vedi, tu hai detto anche la nota additiva che è ancora più terrorizzante, di trovarsi a casa nel momento in cui entrano gli sconosciuti, in cui entrano i ladri. E lì può accadere di tutto. Noi abbiamo scientificamente analizzato questo problema in numerose trasmissioni di servizio. Oggi non è una trasmissione di servizio, è una trasmissione emotiva, di totale disservizio, di totale digressione dalla realtà. Quali sono le vostre paure? Cosa temete che possa accadere? Che entrino i ladri quando non ci siete e vi espropriano, vi spolpino? O che entrino mentre voi ci siete, ancora peggio, vi narcotizzano? E poi cosa fanno di voi? Le cronache sono piene di episodi terribili e mestamente e tragicamente leggiamo ogni giorno di persone violate, persone uccise, di persone picchiate. Beh, perché la casa, che viene considerato come il nostro circolo sacro, il luogo della massima tranquillità, della massima sicurezza, soprattutto in questo periodo diventa una sorta di selva spaventosa in cui ci sentiamo aggrediti? 800 24 00 24, raccontatemi le vostre paure rispetto alle possibili intrusioni casalinghe. Diomede, signora. Signora! Oh, signora! Aiuto! Aiuto! Non grida! Aiuto! Zitta! Per carità! Non grido! Per carità! Signora! Aiuto! Non gridi! Aiuto! Per carità! Aiuto! Zitta! Perché? Perché? Perché? Mi sta arrivando un SMS, ho il 380 volt, scopo via il mucchietto di polvere. Immagino che sia un antifurto, sia un'elettrificazione del proprio appartamento, una sorta di sedia elettrica, di distruttore e disintegratore di ladri. Sentite il clima che stiamo creando e quanto c'è di meglio per rinunciare alle vacanze. In fondo risparmierete soldini e quindi anche questa diventa una trasmissione di servizio. Sansonna, questo invece che film è? Questo era Un maledetto imbroglio, il prototipo del noir italiano di Pietro Germi del 59, e qui c'è il Renzo Tramaglino, cioè il Nino Castelnuovo con la sua aria da bravo ragazzo, che in realtà irrompe, usando il fatto che è fidanzato con la cameriera di casa, irrompe in questa casa padronale dove c'è Leone Rossi Drago, che lo considera un bravo ragazzo, lo conosce benissimo, e lo scopre a rubare. Quindi l'equivoco porterà all'omicidio. Ci si ispira a quel pasticciaccio brutto della via Merulana di Gadda, ma tutto assume la connotazione da film d'azione, di forte impatto emotivo. Film geniale, con recitato. Beh, io penso per l'epoca sarà stato un vero shock questo film, vedere Renzo Tramaglino, il saltatore della steccionata che beveva l'olio prima ancora. Capito? Quindi il prototipo dell'untuosità e della bravo ragazzaggine possibile, vederlo in questa terrificante figura del ladro che per la sua vergogna diventa anche omicida, sarà stato un grosso shock. Vito, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, ci siamo detti allora. Buongiorno, andiamo avanti. Sì, la state mettendo su dura, se volete proprio terrorizzare le persone. Sì, questa mattina sì, e mi dispiace. Io sono molto rilassato sul tema del furto a casa quando non ci sono. Quando ci sono, dormo così poco che c'è anche il rischio che, come già successo una volta, facciano gli appartamenti a fianco, non il mio. Quando invece me ne vado, lascio sul tavolino all'ingresso 500 euro, una bottiglia di whisky, con un fogliettino con scritto in francese, in arabo, in russo e in rumeno: in casa non c'è altro, per favore non fate casino. Secondo lei, scusi, se io fossi un ladro proprio non mi fermerei nemmeno un istante, a parte il whisky, qualcosa molto anni 60, Alberto Sordi, Tognazzi. Ma infatti l'ho preso da mio padre questa cosa, devo dire la verità. Sì, era una cosa antica, il whiskino lo dicevano i film di Alberto Sordi negli anni 60, chi beve più whisky oggi? Io lo bevo, Sì, vabbè, ma è una passione d'antan, dove metterci, non so, qualcosa di più legato ai gusti contemporanei. Poi immaginiamo il ladro che entra, ci dovrebbe lasciare una cassa di vino nel cartone, magari. Che probabilmente... Prova 500 euro in contanti, riprende e se ne va a farsi una. No, io li prendo e continuo a dare a vedere che altro c'è. Dico, se questo può permettere di buttare 500 euro così, chissà cosa nasconde dentro casa. Io andrei, mi accontenterei anche di prendere i suoi vezzosi vestitucci, me li rivenderei a un mercatino. Già sarebbe. Quelli va bene, non c'è neanche il televisore in casa mia. Quindi non c'è nulla da prendere a parte quello. No, sono i libri, c'è un patrimonio in libri. Quindi un lato... Beh, no, quelli non interessano i libri, che pesano molto, sono molto pesanti. No. Va bene, sento che le sta cadendo completamente la comunicazione, evidentemente questa potrebbe essere un escamotage, ne avete altri, avete altri sistemi di difesa psicologica, la bottiglia e la mazzetta per dire non c'è altro, state tranquilli, bevetevi e portatevi via i soldi. Lo trovo un po' debole, perché dovrebbe intimorirsi o impietosirsi il probabile ladro, perché dovrebbe lasciar perdere, perché non dovrebbe andare a vedere le carte. Poi una volta compiuta l'effrazione, il reato è consumato, quindi comunque gli vada, gli va male, quindi tanto vale andare avanti. Sei d'accordo, Giuseppe? Sono d'accordo. Poi c'è una cosa che volevo aggiungere: a Bari c'è un noto compratore d'oro che è diventato molto ricco. Mi hanno scoperto dopo anni che una percentuale altissima di compro-oro probabilmente ha dei legami con la malavita organizzata. Pensa un po' che questo è aperto tutto agosto e lo lancia questo slogan a grandi lettere: aperto tutto agosto, comodissimo anche per chi voglia, appunto, appena effettuato certo, un furto. È il tipico, è la stagione loro dei compro-oro. Sì, sì. Così dal produttore al consumatore. Immediatamente sì. Si abbassa appunto la catena e naturalmente a miglio zero, perfetto. Luciano, buongiorno. Buongiorno, io faccio questo lavoro da 30 anni, nel senso una società che fornisce sistemi di sicurezza, conosco lavoro a Roma, conosco abbastanza in maniera approfondita le motivazioni, diciamo sono anche un po' trasversali che spingono le persone a proteggersi. Diciamo che ultimamente negli ultimi 4-5 anni c'è proprio un sentimento di, come dire, di non controllo e di abbandono del paese, e molti, se non quasi tutti, pensano di essere espugnati da classiche etnie, quelle che ormai descrivono. Il famoso tubo rumeno che ho già citato. Tubo rumeno, albanese, diciamo che i luoghi comuni sono sempre questi. Guardi, c'è una vetrina che vende cassaforte e sistemi di sicurezza vicino a casa mia, che l'ha esposto in vetrina, ha fatto tutta una specie di supporto in legno di radica ed è esposto il tubo rumeno, stupendo in tutto il suo splendore, ma come arma terrificante. Fatevi la serratura di sicurezza, volendo uno può anche tentare, c'è una serratura che sporge, uno mette il tubo rumeno e vede com'è facile scardinarla. Ma funziona l'antitubo? Beh, l'antitubo funziona ovviamente come tutte le cose, se è fatto da un servoprofessionista, e comunque come tutte le cose ha i suoi, nel senso che se non arriva il tubo poi arriva il passepartout, ci sono delle capacità anche, come dire, dall'altra parte molto molto molto avanzate. Diciamo che poi la motivazione dentro casa è quasi sempre della donna, l'uomo l'importante è non gli rubino il televisore per vedere la partita o la mazza da golf o la racchetta da tennis, più o meno io vedo sempre queste, anzi delle volte entrano in conflitto anche tra di loro, nel senso. Pronto? C'è stato un momento, vediamo se riusciamo a recuperare questo nostro ascoltatore, perché sta facendo un'analisi molto interessante. Oggi non avevamo chiamato esperti, ma il parterre vastissimo del pubblico ci fornisce esperti immediati su ogni argomento. Andiamo avanti col racconto, visto che la cosa che è riuscito a dire prima che cadesse la linea, ma adesso lo recuperiamo al nostro ascoltatore, che è una psicosi collettiva, comune, differenziata seconda si tratti di uomini o donne. L'uomo teme meno e ha soltanto due o tre oggetti, l'attrezzo sportivo d'eccellenza e il televisore. Oggi i televisori sono piuttosto grandi, voluminosi, per portar via un televisore come quello che ho io, secondo me ci vogliono almeno due persone, però possono fare anche quello. La commedia italiana invece ha colto, anticipato, analizzato molte di queste psicosi. Sì, comunque adesso affronteremo per esempio Ermon Nezza o Thomas Milian, che appunto vive in questo mondo ambiguo fra la delinquenza da cui proviene e il rapporto con la giustizia verso cui va, e quindi c'era anche una diversa analisi della tipologia criminale. Tu hai citato adesso delle etnie che vengono temute, che alimentano questa psicosi. Ogni epoca ha le sue etnie, sì. All'epoca erano i ragazzi di borgata, non c'era questo timore dello straniero, ancora non si era sviluppato. È chiaro, sono radicalizzazioni con dei fondamenti attualmente di verità. Sentiamo Luciano. Sì, ecco, niente, io se racconto oggi la mia giornata, è da stamattina alle 8, sto facendo sopralluoghi e più non posso, perché poi si addentrano, diciamo, si concentrano nel periodo estivo, ovviamente prima della settimana bianca, l'inverno. E cioè tutti, diciamo adesso, che tutti adesso si ricordano di mettere la casa in sicurezza, eh. Sì, più che altro sì. Comunque diciamo che sostanzialmente, se uno dovesse fare un report definitivo, è la paura della violenza fisica, perché nella descrizione, diciamo, come dire, fatta tutti i giorni dalla televisione o insomma però ahimè Luciano, giornali, accade veramente. Una signora anziana è stata uccisa proprio ieri l'altro da persone che sono entrate in casa e gratuitamente, e probabilmente c'è una pressione fisica esasperata per farsi dire che nasconde il malloppo, che porta a una spietatezza tale che poi alla fine viene uccisa. Beh sì, diciamo che 20 anni fa il ladro, io parlo ovviamente per la capitale, il ladro romano era il ladro col passepartout, insomma anche un po' goffo, saliva con la scaletta, noi trovavamo piedi di porco, cioè, siamo eravamo un po' come dire Totò e Peppino. Sì, cioè, era il tipico quattone che faceva lo scavalco, certo. Adesso invece diciamo che effettivamente è vero, perché io vedo proprio anche delle invasività, delle irruenze anche meccaniche, nel senso che tirano giù delle grade che pesano 2-3 quintali persone, cioè nel senso anche proprio nell'attivarsi, nel tentare l'intrusione, perciò la gente è spaventata proprio dalla determinazione e effettivamente c'è. Diciamo che sono passati a un livello di professionismo, ma l'ascoltatore che ha chiamato una di lei, che addirittura lasciava un messaggio in più lingue, ha già una percezione multietnica e multiculturale del possibile lato, quindi si articola e si specializza naturalmente, arrivano persone specializzate da fuori con molta maggiore violenza e determinatezza, diventa soprattutto persone che hanno molto meno da perdere, questa è l'impressione, quindi non è più il lato tradizionale che al limite porta via, è una forma di rispetto in fondo per la casa che lui lambisce, che sa che potrebbe tornarci a distanza qualche anno. Oggi no, c'è un mordi e fuggi, un fare tabula rasa, un non fermarsi di fronte a nulla. Ma che, andate pure voi da Micheli? Guarda che combinazione. Ci saremmo sbagliati. Ma come sbagliati? Ci avete pure le chiavi, scusa. Niente niente che voi due fossi modulati in appartamenti. Ma che pure voi due, signori? Roba la picciassa sotto le risate. In una città così grande. Tu ladri e tu poliziotti. Tu poliziotti. Ecco, se parlavamo di modello tradizionale, classico, del ladro che scavalca, del ladro con la mascherina nera, quello col passepartout e con il piede di porco, è questo. Sì, questa è Squadra Antifurto di Bruno Corbucci del 76, pure in anni così cupi, Corbucci e Milian delineano appunto delle figure di quartiere, di ladri, che sono dei caratteristi come Venticello, Bombolo, come Toni Ucci, che presi dalla vecchia commedia, per l'appunto rappresentano ladri domestici in ogni senso, a tutto tondo, che non creano quel terrore, quel panico indistinto di feroce, indeterminata e senza nulla da perdere, come dicevi tu prima. Quindi diciamo c'è ancora un'iconografia tradizionale che è stata celebrata dal cinema e dalla commedia. Attendiamo ancora, ma nel grande filone delle bande della Magliana, della banda del Brenta e via dicendo, già abbiamo comunque degli assaggi sulla spietatezza, molto legato a fenomeni nostrani, ma secondo me arriverà anche questo, arriverà il poliziottesco sulle bande dei ladri che vengono da paesi lontani. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Io ho vissuto nel 2001 un'esperienza non bella, vivevo in provincia di Milano, in campagna, avevamo fatto questa scelta di lasciare la città, e avevamo un bambino di un anno e mia moglie in attesa della seconda. Una notte in questa casetta che avevamo a due piani, abbiamo sentito dei rumori al piano di sotto, siamo scesi e ci siamo trovati davanti due delinquenti che con un trapano, attrezzi vari anche abbastanza artigianali, erano riusciti ad aprire le persiane del piano terra ed erano entrati in soggiorno. E non so se è stata la visione di mia moglie col pancione e tutto, sono scappati senza dire niente, si sono detti solo qualcosa tra di loro e sono fuggiti. E l'avete visti? Siete riusciti a vederli? Siamo riusciti a vederli, loro sono corsi sul vialetto, c'era una strada sterrata, c'era il palo che li aspettava in macchina, sono fuggiti, ovviamente abbiamo chiamato la polizia, non abbiamo più dormito per un po' di giorni, alla fine sono anche stati presi, non so se fossero loro o meno, ma in quel periodo visitavano tante case isolate in quella zona. E quello è stato un momento, diciamo, difficile da ricordare per voi, immagino. Sì, tant'è che un anno dopo, appena è nata la seconda bimba, ci siamo trasferiti e siamo tornati. Sei tornati in città. A vivere in città, adesso viviamo in un condominio dove comunque può accadere di tutto, capitato, naturalmente. Esatto, è capitato intrusioni anche lì. La cosa che più sconforta è proprio sapere che anche quando vengono presi, dopo poco sono fuori, perché spesso e volentieri vengono presi successivamente al furto, se non si riesce a dimostrare che cosa hanno portato via, sono denunciati solo per tentativo. Quello è veramente le cito un altro episodio, mi manda in questo momento su Facebook un ascoltatore un ritaglio che lui ha scansionato della Gazzetta di Cremona, mi sembra, di un signore di Volongo che ha sentito dei rumori in casa, un quarantenne, pensando che erano dei ladri, è andato in camera, ha preso il pistolone regolarmente denunciato, ha inserito i colpi e ha preso a revolverata la porta del gabinetto. Non c'era nessuno, per fortuna nessun familiare era in quel momento in gabinetto, poi è stato denunciato perché non si può sparare così dentro casa come se niente fosse. Quindi anche il fatto di essere armati probabilmente aumenta le situazioni di rischio, anche se probabilmente per qualcuno è motivo di maggiore tranquillità. Tanto che fate queste cose. Non è che voglio fare poliziotto, però mi piacerebbe sapere chi siete, da dove venite. Madoni, ma invece di cazzate, perché non ci canti la canzone? Sì, adesso secondo te mi metto a cantare. E dai, Adoni, famo. Com'è quella? Cuore matto. Eh? Dai, ti faccio l'accompagnamento del basso. Tu lo faccio io, Adoni, mi canti. Eh? Dai, io va. Vai, Adoni, che c'è? Ti ricordi le parole? Ma che sei matto? Qua ci sentono. Ma chi ci sento? Vedi che sta casa è in castello. Vai, Adoni! Non scherziamo. Canta, Adoni. Canta. Adoni, ci siamo capiti. 800240024, mi dice Fabrizio Intonti e il professor Chiappini, sempre attenti alla salute e il benessere degli ascoltatori, non calcare troppo la mano, non fare una trasmissione terroristica, non lo sto facendo, infatti mi tengo leggero. Giuseppe Sansonna, questo fantastico dialogo nella notte. La leggerezza squisita è L'odore della notte di Claudio Caligari, in cui Giallini punta la pistola alla cotonatura di marcescibile di Teltoni, anche se sono gli anni 70, e lo costringe a cantare mentre gli stanno depredando casa. Questa è una storia vera, non quella di Teltoni, ma di questa banda, chiamata la banda dell'arancia meccanica, capeggiata da questo poliziotto di giorno e rapinatore di notte, che risarciva un po' cercava il suo riscatto sociale andando a svaligiare le case dei ricchi borghesi. Con una nota parafilia tendente al masochismo, però se devi costringerli Teltoni a fare qualcosa lo fai proprio cantare. Certo, questo è appunto il cilicio, che c'è, cioè, l'autopunizione, la coscienza di essere nel peccato e quindi doversi... Aveva già in sé il senso di mortificazione e di pentimento. Certo, la colpa. Micaela, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io volevo raccontare un episodio, direi anche simpatico, che ci è capitato. Siamo in un condominio a Velletri dove sono venuti più volte i ladri, nonostante poi si sia al quinto piano, quindi il mastico, sono riusciti ad entrare lo stesso più volte. Da dove entrano? Dalla porta di casa. A bussano e entrano? No, quindi no, non proprio bussano, perché sono venuti sempre quando non c'eravamo. Dopo la terza volta a mia madre viene la brillante idea di scrivere un cartello grande dove c'è scritto: per i ladri siete venuti già tre volte, e l'abbiamo lasciato sulla porta, vita natural durante, perché rimarrà sempre lì. Il quarto ladro che è venuto ha aggiunto simpaticamente: ma io no, mettendo un punto interrogativo, e quindi è venuto e ci ha ripulito come hanno fatto gli altri precedentemente. Il però, quinto? No, devo dire che dopo il quarto non c'è stato il quinto ancora, spero non ci sia più. Comunque ingenuo, un ladro che lascia la sua calligrafia su un... è talmente sicuro di sé, ha così poco da perdere, che è totalmente disinteressato al fatto di poter lasciare tracce. Quindi insistete sulla tecnica persuasiva, considerando che i ladri di appartamento siano esseri dotati di compassione, di tenerezza, di possibilità di ripensamento. Questo fa onore comunque ai nostri ascoltatori. Ma sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Nicoletti, buongiorno a lei e al suo ospite. La seguo quasi ogni giorno. Senta, no, a conferma di quanto state dicendo, volevo dire solo due cose brevissime. Che innanzitutto il settore della sicurezza, io vendo sistemi di sicurezza. Il cartello non serve a nulla, me lo conferma? No, il cartello non serve a niente, anzi, cioè, molte volte non sanno nemmeno leggerlo, perché la maggior parte dei ladri, ladruncoli che girano per campagne, per ville, sono principalmente rom, zingari, che si prendono via anche una carriola arrugginita se la trovano. Portano via tutto. le due cose velocissime che volevo dire. Una è che il settore della sicurezza è uno dei pochissimi settori che non ha minimamente risentito di questa crisi, anzi è direttamente proporzionale alla crisi l'aumento dei sistemi di sicurezza. E poi un'altra cosa, la tendenza attuale è quella di proteggere sempre di più l'esterno delle case, i giardini, in quanto il ladro, una volta che si avvicina alla casa, spruzza una bomboletta sotto la porta di casa e addormenta praticamente tutta la famiglia. Quindi lei mi conferma che questa non è una leggenda metropolitana, esiste assolutamente veramente? Assolutamente no. Io, guardi, sono di Napoli, ne sento tante in tutta la campagna, specialmente dalle ville. Ma dove si acquistano queste bombolette narcotizzanti? Io questo purtroppo non lo so. No, penso che dovrei fare un uso domestico ogni tanto, saltuariamente sarebbe utile. Ma nel focolare domestico, mai a casa d'altri. Certo, questo per dirle che il ladro arriva, soporizza praticamente tutta la famiglia, entra in casa con tutta la famiglia, magari del figlio, tutti addormentati. Tutti addormentati, entrano in casa e addirittura aprono il frigorifero, mangiano. Il peggio che può succedere è che magari violentino la moglie, si rubino un tanto bambino. Dorme, dice, non se ne accorge. Tanto dormono, non se ne accorgono. Tutto qua, insomma. Ma quindi queste cose accadono veramente? Beh, mi conferma quelle che sono le paure delle persone. Ho qualche dubbio sulla possibilità di, con una bomboletta, di saturare un intero appartamento di gas soporifero. Cioè ci vorrebbe un camion, come fosse il camion che fornisce una camera a Gazprom in persona, ci vorrebbe. Sì, un derattizzatore comunque. Se queste cose accadono e molte persone vivono nell'incubo di poter essere stuprate sotto narcosi, è giusto che ricordiamo che c'è anche questo pericolo. Ora, quella villa è piena di argenterie, di oggetti preziosi, quadri di valore, gioielli e pellicce della moglie, insomma di ogni ben di Dio. Ogni giovedì la Padovan non usufruisce del riposo settimanale e passa tutto il pomeriggio alla sala da ballo Tevere d'Oro. Uno di voi dovrebbe raggiungerla, corteggiarla, sedurla e nel momento culminante prendere con la cera il calco della chiave della villa. Ma chi ci mando di voi? Devo dire che mi superano grandemente i miei ascoltatori in spregiudicatezza e ostentazione finta, poi sono tutti animi teneri di cinismo. Un ascoltatore mi scrive un sms che lui lascia sì cibo nel frigo, ma lo avvelena quando se ne va, così dice, il ladro rimane secco come una trappola per topi. Di cosa stavamo parlando adesso? Qual era il film? Questo era Scuola dei Ladri, siamo nel 1986 e negli anni della Milano da bere il furto aveva anche un'anima glamour, una sorta di appeal fascinoso. Diciamo che nell'era dell'Italia da bere il furto era istituzionale. Sì, sì, è quello che mi riferivo. Insomma, erano quindi i valigioni di soldi che ci si scambiava nei retrobottega dei bar e dei locali ben frequentati. Ascoltando Tracy Spencer a tutto volume, come abbiamo sentito nella clip. Invece Enrico Maria Salerno è una sorta di grande mente, di testa d'uovo, qui sul suo viale del tramonto attoriale, insegna ai tre gaglioffi da poco, che sono Banfi, Boldi e Villaggio, gli insegna come, che sarebbero i suoi nipotini, gli insegna come rubare, quindi in questa grande villa gli insegna come accedere, e qui si torna al maledetto imbroglio, alla cameriera che è sempre la tenutaria della chiave attraverso la quale entrare senza scassinare nella casa padronale e quindi poter depredare tutto. È il metodo che conta. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Salso Maggiore, provincia di Parma, sono un tecnico della sicurezza. Devo dire che non avevo mai fatto, scusi Roberto, poi la faccio, un'indagine di mercato così dettagliata sul nostro target. E oggi una trasmissione come questa già è il terzo, quarto esperto in sicurezza che chiama, quindi abbiamo un folto pubblico fra gli esperti in sicurezza, i tecnici della sicurezza, sono contento. La priporta principalmente, sostituisco serrature, e nell'immaginario collettivo il ladro, secondo me è sbagliato identificarlo come il rom, il classico ladroncolo. Noi siamo di fronte a bande di professionisti veramente attrezzati al 100%. Le faccio un esempio. Se io una serratura ci metto un quarto d'ora a aprirla, loro ci mettono la metà. Cioè qui c'è veramente gente veramente preparata oggi. Lo vedo sui sistemi di neutralizzazione degli antifurto elettronici più sofisticati. Hanno sistemi sì. Che riescono a bloccarli o a metterli fuori. Io parlo per le serrature, perché oggi come oggi noi stiamo correndo ai ripari, montando le serrature, quelle a codice, col cilindro codice, blocchetto codice per intenderci, perché quelle classiche blindate a chiave lunga le aprono. No, quello è ormai, vabbè, ormai solo un ingenuo non si mette una serratura a codice, almeno una serratura a codice. Veramente, cioè anche quelle a codice, se non sono di ottima qualità, le aprono, fanno la chiave sul posto. Siamo di fronte a bande di professionisti organizzati. La costruiscono sul posto, prendono il calco e sì, riescono a fare la chiave. A me è successo da un mio cliente di trovare la chiave inserita nella porta lasciata inserita, fatta al momento. Non era un blocchetto di altissima qualità, però cioè, qua c'è gente veramente avanti, non è che siamo rimasti al classico zingarello, così per intenderci, senza offesa. Che apre col cacciavite, no, sono vecchi tempi. Qui è gente che apre ed è veramente avanti, qua sono bande organizzate, chiamate secondo me da basisti sul posto e li mandano nei posti già identificati, veramente. Siamo di fronte a gente che è avanti a noi anni luce, e quasi tutti sono dell'est, per almeno quello che risulta a noi. Se sono dati statistici, bisogna nascondersi dietro il politicamente corretto, se è così, sono popolazioni che arrivano, sono popolazioni molto con una grande esperienza tecnologica, capacità tecnologica, quindi come in senso positivo sono tutte le maestranze che ormai costruiscono in Italia, vengono dai paesi dell'est, anche le maestranze che scassinano le porte verranno in gran parte dai paesi dell'est, non ho difficoltà nel crederlo. Giuseppe Sanzon. Oh, c'è una foto che gira su internet con una simbologia che viene apposta a fianco ai nomi sui citofoni, l'attribuiscono ai Rom, ma casa da svaligiabile, casa con cane. Ma pare ci sia, guarda, non so che dirti, no. Da quando sono bambino leggo queste cose, c'è molto del leggendario su questo, certo, non so se il nostro ascoltatore può dirci qualcosa, segnano con dei segnali gli appartamenti. No, almeno io, a me non risulta. A me risulta che ad esempio nei condomini dove quelli di recente costruzione, dove le porte bene o male sono della stessa marca, vengano chiamate delle persone che sono in grado di aprire soprattutto le porte di quella determinata marca, no? E nel giro di una mattinata sono capaci di fare anche 4-5 appartamenti. Però non hanno simbologie, c'è una persona sul posto che li chiama. Ecco, questa è una cosa, importante. C'è sempre qualcuno nella stretta area di convivenza che comunque fa da basista, senza criminalizzare, ma c'è qualcuno che alla fine gli dà le indicazioni, vai a casa mia o vai a casa sua, vende le case in cui c'è qualcosa da portare via, perché non è sempre detto ci sia qualcosa da portare via. Non mollate, eh? La padella. Chi c'è la padella? Io? Ma non è che sfondiamo anche la cassaforte, vero? Magari. Sta più a sinistra, all'angolo. Bella comare mia. Chissà quanta roba c'è dentro. E chi può dirlo? Zitti. Ci siamo. Ma io sai che faccio? Mi faccio una bella amante. Gli do 25.000 lire al mese. Magari 30, guarda. La capanne. Dimmi bene. Invece di parlare dell'amante, fammi aprire un bicchiere d'acqua. Che c'è? Questo è un classico, i soliti ignoti, che adesso Sansonna ci dirà qualcosa in più, che rappresenta i primordi, la preistoria del furto in appartamento. Ci scrive un ascoltatore, dice: i prossimi furti li faranno sfruttando la georeferenziazione tramite le apps, faranno lo scouting del padrone di casa per vedere quando è fuori, ci seguiranno. Noi giochiamo con il nostro tablet, ci divertiamo a lanciare messaggi, sono qui, sono lì, loro ci seguono e possono vedere anche quando ci stiamo riavvicinando a casa, quindi ci geolocalizzano e naturalmente fanno i fatti loro a casa nostra. Quindi saranno distanti anni luce da questa banda di cialtroni meravigliosi, di affamati come personaggi di Alan Ford, che sono Pepper Pantera, ovvero l'esordio comico di Gasman in questo film, e i soliti ignoti, che è del 58, attorniato da gente come Capannelle, da Renato Salvatori, da Mastro Iani, da Ferri Bot, tutta gente inadeguata all'impresa pur non eccelsa che devono compiere, insomma, questa, e finiranno a mangiare pasta e fagioli, perché più di quello non possono fare, l'impresa è impossibile, si rivela sempre al di sopra delle capacità intime, e addirittura finiranno, quel che è peggio, qualcuno finirà a lavorare addirittura, questa sarà la mesta conclusione. Comunque un film che ha tracciato l'iconografia classica della banda dei ladri sfigati. Ci siamo ispirati per decenni ai soliti ignoti, e ancora in qualche titolo i soliti ignoti colpiscono ancora, quando poi vedi i soliti ignoti. Audace colpo dei soliti ignoti, appunto. Oggi sono sempre più specializzati. Però loro in realtà veniva dalla cronaca, questo già c'era nella cronaca, l'hanno preso per il film, e cioè appunto Gasmar che è ingoffito con balbetta, la fronte abbassata, con un crine molto folto calato sulla fronte per renderlo più ridicolo, insomma. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io chiamo dalla provincia di Cuneo. È successo che un anno e mezzo fa, circa marzo, una notte, io abito in una casa per conto mio, una piccola villetta, e sono stato svegliato da dei rumori. Mi sono alzato immediatamente e ho visto da un finestrino che dà su un piccolo bagno di servizio che c'era un individuo che stava con, poi l'ho capito, me l'hanno spiegato dopo, con un trapano stava cercando di forare il serramento. È una tecnica prettamente dell'est, un po' dicono albanese comunque. Praticamente con un ferro loro riescono a entrare dentro e poi inarcano questo ferro e aprono la maniglia. È chiaro che poi se scatta l'allarme ci può stare che scappino pure, ecco, diciamo. Quindi questo conviene chiudere, avere maniglie che si chiudono a chiave, che almeno col ferretto è più difficile aprirle. Esatto, esatto. Quindi ho visto questo, guardi, sinceramente non si può mai dire cosa si fa quando si trova... Cioè l'ha visto, ha visto una persona tutta intenta col trapano che voleva entrare a casa sua. Sono arrivato, lui era al chiaro, io all'oscuro, lui non mi ha visto, continuava con i suoi bei riccioloni a puntare il trapano e lì scatta proprio un qualcosa che non sai, perché nessuno di noi può dire se li trovo, cosa faccio. E lei cosa come reagisce? Guardi, io ho tirato un pugno a questo vetro che comunque è antisfondamento. Vabbè, ma è da masochisti, scusi. Vabbè, ma il pugno al suo vetro di casa sua? Sì, sì, beh, comunque... Lei poteva attrezzarsi con una mazza da baseball o con un macete o con una spada Masai, tirare sulla serranda al volo e fendere il fellone. No, guardi, è successo questo. Io ho tirato questo pugno di istinto proprio. Ma rompeva il vetro, si faceva male la mano. Non sì, vedo il vantaggio. Sì, in quel momento non ci ho pensato. Poi ho aperto subito, immediatamente, un altro infisso, è partito l'allarme e chiaramente è scappato. La cosa è che io ho dovuto comunque, perché non riuscivo più, mi creda, non riuscivo più a dormire la notte. Ogni notte era... No, è brutto, immagino è molto brutto. Vedere, una cosa è allucinarlo, una cosa è vederlo fisicamente, intento, uno che ti sta organizzando per fregarti di brutto. Io non dormivo più la notte, ma poi era una zona, la nostra, che era da un po' di tempo che veniva spesso e volentieri battezzata, quindi non era un episodio così. Al che abbiamo dovuto, ahimè, spendere qualche soldino nuovamente... E devo dirle sinceramente, stiamo dormendo tranquilli perché abbiamo fatto abbiamo allarmato praticamente la parte esterna di casa, non nel giardino, quella proprio attaccata a casa. Cioè abbiamo fatto in modo di mettere dei sensori, sono dei sensori particolari che quindi non vanno a riprendere il cagnino o il gatto, perché poi anche questo, perché ne vendono di tutti i tipi. Solo l'essere umano. Poi se tutte le volte, ecco, diciamo che vanno soprattutto a forma, cioè a dimensione, cioè vanno a leggerti il computer, il programma va a leggerti una massa, ecco. Devo dirle che da allora è passato un anno e poco, comunque tre notti di nuovo, già di nuovo partito, e abbiamo appurato che erano comunque umani. Umani, quindi, umani ben dimensionati che hanno ben fatto dimensionati, scattare. Sì, beh, è molto in campagna, utile. Abitando in campagna un gatto, un cane potrebbe veramente, cioè tutte le notti sarebbe un... Sì, sì, ma molto, molto interessante. Il sensore che analizza le dimensioni di colui che tenta l'intrusione e valuta se è il caso di farlo entrare o no. Liv. Buongiorno. Ah, Liv, sì. Allora, io ho avuto i ladri molti anni fa, era anche primo d'aprile, ma questo non c'entra. Sono venuti i ladri e naturalmente mi è dispiaciuto moltissimo per le cose che mi hanno portato via. Però la cosa più brutta me l'hanno detta in questura, che mi hanno detto di non pensare a dei ladri, cioè a non pensare a degli zingari nomadi così, ma che era qualcuno che conosceva la casa. E siccome poi anche all'epoca, vicino al 68, cioè c'era sempre della gente in casa... Uno cominciava... Lei faceva dei sit-in, dei droga party a casa, quindi... No, non così. No, però insomma, se erano più giovani... Delle sedute di autocoscienza? Sì, a sospettare... No, ma cosa faceva a casa con queste persone negli anni 60? Eravamo poi negli anni 70. Ah, 70. Si chiacchierava, si mangiava... Suonavate la chitarra e facevate le canne, amore promiscuo. Ma cosa dici? Non lo so, lo dico, perché come faceva a sospettare dei suoi amici altrimenti? No. Il brutto è quello che loro sospettavi della babysitter, della donna di servizio, degli amici, non amici, delle persone che potevano essere venute in casa. Lei faceva venire sconosciuti a casa, va bene, conferma la mia idea della promiscuità indegna. Sta facendo un quadro. altro che non è quello che volevo fare. Ma io tendo a forzare sempre la volontà. Comunque abbiamo capito, lei è rimasta male perché le hanno detto, guarda, qualcuno che è già stato in casa. E quindi, come hanno confermato molti esperti, c'è sempre una serpe in seno che dà la dritta. Vuoi la badante, vuoi il badante, vuoi l'amico, vuoi l'amica, vuoi il figlio dei fiori che lei chiama a casa a suonare la chitarra e farsi canne, che naturalmente prima o poi segnerà la sua casa. Grazie, Mauro. Buongiorno Nicoletti. Sì. Non faccio i complimenti per non essere segato. Bravo, comunque. Ha capito. La prova davanti che stiamo per chiudere. Allora, la cosa non succede solo negli appartamenti, ma pure i camion sono molto soggetti a rapine. E il gas che usano è del comunissimo gas da fornelletti da cucina, del butano, della bomboletta delle dimensioni, quella della lacca della signora, diciamo, in vendita in tutti gli autogrill. Cioè, ma quello addormenta, quello avvelena, ammazza semmai. Sì, ma avvelena, ma noi sappiamo dei colleghi che sono rimasti 2 giorni a dormire dentro il letto della cabina. Quindi vi gassano con il gas delle bombole. Esattamente quello, perché poi... Come la vecchia leggenda della babysitter infedele che mette i bambini sul gas. Vabbè, no, Mauro ci conferma questa terribile facezza che in realtà ha un fondo di verità. I ladri arrivano a gassare le loro vittime, quindi state attenti o dormite con la maschera antigas. A domani.